Siamo con Diego Pascal Panarello per parlare del suo film The Strange Sound of Happiness, in uscita in sala il prossimo 18 aprile. Diego, benvenuto. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Sì, Ce ne parli un po', ce lo presenti? The Strange Sound of Happiness è un film nato un bel po' di anni fa, circa 6 più o meno. È un'avventura che insomma all'inizio non doveva vedermi protagonista, ma alla fine ci sono ritrovato coinvolto fino al collo e quindi sono diventato il narratore di questa storia che parla di un mondo che scopro attraverso un piccolo pezzo di ferro, che poi sarebbe un piccolo scacciapensieri siciliano, che ha appunto la forma di una chiave e mi ha aperto un mondo sconosciuto, che è il mondo della Iacuzia, dove questo strumento è un oggetto quasi sacro, senza quasi, e io scopro vivo delle avventure che in qualche modo mi cambiano la vita. Appunto. E cos'altro dire? Vediamocelo. Tu l'hai visto, Federico, il film? No, ancora no, non ho avuto modo, quindi sono molto curioso. Senti, come raccontaci un po' la genesi di tutto questo? La genesi creativa o produttiva? Diciamo, partiamo prima dalla creazione e poi sì, chiaramente dalla realizzazione. Genesi creativa, lo strumento è tipicamente siciliano, quindi l'ho sempre visto, mi è sempre incuriosito. Un giorno però è come non so come dire, una chiamata, sono andato in un negozio di souvenir, ne ho preso uno, ho iniziato a suonarlo e quando ho fatto la prima nota ci ho messo un po' per farlo suonare, qualche ora, un giorno forse, e ho sentito un piacevole massaggio alla testa. Ho sentito che quello strumento mi procurava piacere e quindi ho pensato che questo piccolo pezzo di ferro avesse qualcosa da raccontarmi o da svelarmi. E così ho iniziato le indagini e ho scoperto delle cose sensazionali. Il film non è didattico, non parla della storia dello strumento, anche se le prime ricerche erano direzionate in quel verso lì, ma parla della semplicità della vita, di come si può scoprire un mondo nascosto dietro l'angolo, quello che è successo a me. Ecco, a questo proposito, hai trovato anche dei paralleli con questo altrove geografico? Questa terra così diversa dalla mia, qui è caldo, lì è freddo, qui insomma questi due posti agli antipodi culturali in realtà sono legati da questo piccolo strumento. Ho deciso di raccontare questa terra come un luogo immaginario della mia mente. Senti, ma storicamente dove nasce lo strumento? Storicamente il bello è che dietro questo strumento c'è poca letteratura, poco si sa, ma a me piacerebbe che restasse il mistero di questa cosa, nel senso che la cosa più probabile è che sia nato contemporaneamente in tanti posti. Sì. È talmente semplice questo strumento, pare sia nato con un uomo primitivo che spolpava un pezzo di carne, che si è ritrovato un pezzo d'osso tra i denti, ha iniziato spolpando carne, ha iniziato a modulare dei suoni con l'osso della sua preda. E quindi ognuno poi l'ha fatto proprio, chi l'ha iniziato con l'osso, il materiale da cui era costituito, poi è diventato legno, poi con l'era del ferro si è stabilizzato sul ferro e in ogni paese hanno fatto una forma e quindi un suono diverso. Ecco, in questo senso, più o meno in quanti paesi è diffuso? Guarda, non te lo so dire esattamente, però in quasi tutto il mondo, Ah, quasi ok. tutto il mondo è nascosto negli angoli di ogni cultura. E ci sono dei paesi in cui non lo conoscono, però sono veramente pochi. Per esempio in Messico non lo conoscono, però secondo me adesso con l'uso di internet si sta diffondendo veramente dappertutto. Senti, questo richiamo alla felicità nel titolo, come mai? Perché è stato un suggerimento di una persona che ho incontrato, un giapponese, Leo Tadagawa, un bravissimo suonatore e ricercatore, che mi ha raccontato che in Yakuza suonano la goccia d'acqua, il suono della goccia d'acqua, riproducono il suono della goccia d'acqua per emulare lo scioglimento del ghiaccio e quindi l'arrivo della primavera. Quindi con quel suono là loro rappresentano la felicità. È una frase che mi ha ispirato molto, poi alla fine anche un pochettino leitmotiv del film, perché la storia narra di me che dopo 20 anni torno a casa, dopo una serie di fallimenti torno a casa dei miei genitori e attraverso questo piccolo pezzo di ferro per un attimo tocco la felicità. Diego, che percorso distributivo farà? Allora, adesso il film è distribuito in Italia da Simone Bacchini di Apapaia. E lo sta distribuendo a macchia di leopardo, cioè anziché uscire un giorno o contemporaneamente in tutta Italia per 2, 3, 4 settimane, quello che è, esce in varie regioni in diversi momenti dell'anno, e ogni volta che esce si crea un evento in maniera tale che ogni proiezione, ogni singola proiezione è curata da una certa attenzione. Senti, una curiosità in chiusura, volevo chiederti anche se c'è spazio per la performazione anche nel tuo film. Ma senza dubbio, diciamo che dopo la proiezione di solito si fa sempre una chiacchiera con il pubblico e poi in base al mood del momento faccio uno, due, tre pezzi su richiesta e poi il film si presta anche a varie performance live che si potrebbero fare, ma magari questo verrà anche un po' in futuro, però sì, di solito alla fine dei film faccio sempre qualche pezzo anche così per ringraziare il pubblico. Senti Diego, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Beh, The Strange Sound of Happiness su Facebook ci sono tutti gli aggiornamenti. È Perfetto. semplice. Allora, ricordiamo questo tuo lavoro in uscita in sala il prossimo 18 aprile. Un saluto e un ringraziamento a Diego Pascal Panarello, un abbraccio in bocca al lupo e alla prossima. Grazie Federico, abbraccio a te e il pubblico. Ciao. A presto, grazie, ciao.